Ti è un robot, ci matuso, per c'è chi ti strico, parlo tra le nuove rocche, ho visto scuffo, ti vero loro, finta che stai vincendo me, ma in terreno rock and roll, yeah. Mille nuovo, ora mille puri, you're at naked, non cohevo il suri, engem giochis, the kill, land the blue ball, kill a kill, and I'm an angry look at all I can do. Come on.